Una legge di iniziativa popolare perché abbiamo fatto una scelta, quella di stare nelle piazze, nelle strade, nei mercati, discutere con le persone e raccontare che cosa abbiamo in testa. Una cosa che a me pare tanto semplice quanto necessaria: riformare il sistema dell'imposizione patrimoniale del paese per renderla progressiva. Oggi esistono delle imposte patrimoniali, l'IMU sulla seconda casa, l'imposta di bollo, ma non sono eque e non sono progressive. Producono distorsioni al contrario, in un paese in cui già la diseguaglianza è impressionante, anche un po' indecente. Chiediamo di mettere in campo una riforma che ci consenta di avere da chi ha tantissimo qualcosa in più, non gli facciamo un gran danno, non gli roviniamo l'esistenza, per garantire alla stragrande maggioranza, in particolare ai giovani, una condizione di vita migliore, per garantire l'istruzione gratuita, l'asilo all'università, l'accesso alla cultura, la mobilità, insomma tutte cose che si possono fare senza immaginare rivoluzioni particolari, con un po' di giustizia. Una tassa proprio a favore delle nuove generazioni. Quando parliamo di nuova generazione, che fascia d'età intendiamo? Beh, questo è un paese in cui si è giovani un poco a lungo. Però io credo che chi studia e le giovani generazioni sono i ragazzi e le ragazze di questo paese che vanno dall'asilo all'università, mettiamola così, sono il futuro, se ne parla molto, si riempiono tutti la bocca dei giovani, quando poi bisogna fare cose concrete nessuno interviene. Pensate che in questo momento dell'anno ci sono troppe migliaia di famiglie in questo paese che si fanno il segno della croce per trovare i soldi per pagare i libri di testo nel ciclo dell'obbligo. L'istruzione è tornata ad essere troppo spesso un lusso. Ecco, io penso che intervenire su questo sia una scelta seria e anche necessaria. Proprio concretamente, come si potrebbe fare questa ripartizione della ricchezza, cioè che fascia di reddito andrebbe a toccare? Noi prevediamo un'aliquota molto progressiva che parte da una franchigia di 500.000 di euro per persona fisica. Una franchigia vuol dire che da 500.000 in giù si paga zero, per tutto ciò che va oltre scatta la prima aliquota dello 0,2, quindi un'aliquota molto bassa. Se hai un patrimonio netto personale, parliamo di persone fisiche, faccio un esempio, marito e moglie che hanno una casa che vale 1.000.000 di euro, non pagano niente, e parliamo del valore catastale, non del valore commerciale. Se si riformasse finalmente il catasto, ma non mi pare aria, alzeremmo naturalmente la prima franchigia un po' più in alto. Dunque, a persona fisica franchigia di 500.000, 0,2 per tutto ciò che va oltre 500.000 fino al milione, poi passiamo all'1%, okay. Poi all'1,5, poi al 2, naturalmente a salire il 2 sopra i patrimoni da 50.000.000 di euro. Questa è una riforma che interviene sostanzialmente sul 10% della popolazione e in modo significativo sul 5%. Il 90% ne ha un guadagno doppio. Il primo guadagno è che paga meno tasse di quelle che paga oggi, perché non c'è più l'IMU sulla seconda casa e non c'è più l'imposta di bollo messa dal governo Monti. Il secondo guadagno è che con i 10 miliardi all'anno netti che contiamo di recuperare potremo fare molte cose utili per quel 90%. 10 miliardi netti. Questa è la nostra previsione, naturalmente è una previsione che non può che essere una previsione di massima. L'Italia non ha neanche un'anagrafe patrimoniale, questo la dice lunga su come stiamo combinati. Ma noi contiamo che tra i soldi che dovremmo comunque ripartire ai comuni in assenza dell'IMU sulla seconda casa, che oggi va ai comuni e quindi dovremmo restituire, e quello che si ricava complessivamente, 10 miliardi netti sono una cifra realistica. Naturalmente noi pensiamo che serva una riforma complessiva del sistema fiscale, anche questo è all'ordine del giorno della discussione del governo, ma temo, diciamo, che i primi segnali non vadano nella direzione giusta. Serve una maggior progressività sull'IRPEF, cioè sui redditi, serve sul terreno patrimoniale, serve anche sul terreno delle successioni. In questo senso Enrico Letta ha fatto una buona proposta che io condivido, ma che, come avete visto, è stata largamente, diciamo, oggetto di denigrazione. Questo è un paese in cui quando dici la parola tasse sembra che l'unica cosa che si possa dire è abbassarle. Io penso che le tasse vadano abbassate alla maggioranza delle persone, delle piccolissime imprese, dei piccoli commercianti, vanno alzate però a chi ha fatto enormi profitti, cominciando dalle multinazionali che in questo paese fanno profitti clamorosi e pagano in percentuale meno del piccolo commerciante del centro delle nostre città, ma arrivando anche a chi ha accumulato enormi patrimoni, e sono tanti. Io penso che questo paese abbia bisogno di politiche che non solo redistribuiscono la ricchezza, ma rimettono in qualche modo al centro i diritti del lavoro. Quindi io penso che serva un salario minimo legale di almeno 10 euro. Si comincia a discuterne e questo è un fatto molto positivo. Se ne discute però troppo poco, è l'ora di fare scelte concrete. Noi siamo impegnati sul fronte dei diritti del lavoro, dei diritti di chi è precario, dei diritti di chi è sfruttato. Siamo impegnati sul fronte della transizione ecologica. Mi pare piuttosto urgente in un paese in cui il ministro deve aver confuso la dicitura del suo ministero, ha letto transazione invece che transizione. Transizione vuol dire investimento sulle energie rinnovabili, vuol dire stop al consumo di suolo, vuol dire cose che ancora in questo paese sono lontane dall'essere realizzate. Su tutto questo io penso che servano posizioni chiare e noi siamo tra quelli che provano a metterle in campo.